X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Cos'è, una piccola icona in fondo allo schermo? Cliccaci sopra e poi premi Ctrl Shift. Database difesa, cifratura 128 bit. Che ne dici? Impossibile? Niente è impossibile. Codice di un attacco misterioso. Ci sono circa 37 trilioni di possibili combinazioni di crittografia in quel codice. Il pirata ha rubato migliaia di dati, articoli di ricerca, documenti, messaggi. Gli hacker sono in guerra da due giorni. Si scatena il nuovo attacco ai danni della Sony, che rischia di diventare il più grave di tutti i tempi. Cadono sotto gli attacchi dei pirati informatici società che hanno impedito il pagamento online delle donazioni, strangolando Wikileaks. Content distrugge qualunque tipo di difesa del sistema, lo cancella completamente. Premendo solo qualche tasto potresti mettere in ginocchio una città, forse anche una nazione. Sovraccaricare le linee telefoniche, la posta elettronica, interrompere il controllo del traffico aereo, mettere al buio una città, mandare in tilt i computer degli ospedali e delle banche, e niente potrebbe fermarti. Oggi parliamo del pericolo di attacchi informatici ad aziende private, infrastrutture e infrastrutture critiche anche, come le dighe, le reti elettriche, gli aeroporti. Ma il rischio, anzi la certezza di questo tipo di pericolo è arrivato alle mail di Barack Obama. Da Washington la conferma. Nei mesi scorsi un gruppo di hacker si è introdotto nel computer della Casa Bianca e intercettando un flusso di mail che da vari uffici porta fino allo studio ovale del presidente. La Casa Bianca ha tentato prima di ridimensionare la notizia di questo attacco informatico, ma il 23 aprile il ministro della difesa Carter ha dovuto ammetterlo, dicendo: la nostra squadra difensiva li ha individuati e buttati fuori. Dall'annuale rapporto di Verizon del 2014 si risulta che sono stati compromessi 700 milioni di dati in seguito ad attacchi informatici, per una perdita stimata di 400 milioni di dollari. Mariana Vintiadis lavora per la società americana Kroll, che si occupa di sicurezza informatica dei responsabili in Italia, Grecia e Spagna. Ecco, dottoressa Vintiadis, le tornano i numeri di questo rapporto? Sicuramente i dati di Verizon sono corretti. Quindi sono attendibili, insomma? Sono assolutamente attendibili nella misura in cui stiamo parlando di dati dichiarati, cioè un'azienda o un privato deve essersi prima accorto di un attacco. Prima, certo, naturalmente. Quindi possono essere molti di più, ci possono essere anche dei dati non dichiarati. Ecco, ma in Italia le aziende sono preparate a fronteggiare attacchi informatici, secondo lei? Noi troviamo già che a livello di grosse multinazionali la preparazione tipicamente scarseggia. Scarseggia, quindi ci vorrebbe la figura del responsabile della sicurezza informatica, c'è? Il responsabile della sicurezza informatica, per esempio in Italia, è presente tipicamente perché anche a causa della garante della privacy che richiede, certo, il responsabile della sicurezza si trova nelle aziende. Il problema è che, come enfatizza anche il rapporto Verizon, la maggior parte dei problemi nascono dal fatto che sono proprio gli amministratori di sistema a non aggiornare regolarmente i sistemi informatici. Senta, dottor Saventiadis, ma chi sono le prede preferite o perfette per gli hacker? Le prede preferite dipendono tipicamente da quello che è l'obiettivo dell'hacker, cioè l'hacker può essere mandato da qualcuno per fare cyberspionaggio, certo. Allora ci possono essere piani industriali, quindi aziende che possono avere questa tipologia di problemi, collezioni, se vogliamo parlare della moda in Italia. Da un punto di vista invece finanziario, quindi del hacker criminale, chiamiamolo, sì, allora l'interesse può essere quello di cercare dati bancari e quindi, naturale, anche i privati possono essere vulnerabili. Ecco, ma c'è una terza categoria importante, sì, sono i professionisti. I professionisti sono estremamente vulnerabili, tipicamente sono società piccole o studi associati abbastanza piccoli, poco protetti, ma i dati a loro disposizione su contenziosi eccetera sono estremamente vulnerabili per un hacker, sono sia vulnerabili ma anche utili, perché possono portare sia informazioni pratiche utilizzabili, certo, che valgono anche nelle ricatti. Contese. C'è un sistema di allarme che segnala la frode informatica? Esistono sono varie tipologie di sistemi, ci sono sia programmi che possono analizzare transazioni, per esempio molto spesso utilizzati dalle banche e le assicurazioni per transazioni fraudolente, però è chiaro che quando si ha un'attività limitata o piccola non c'è necessariamente il certo. volume dei dati per cui gli algoritmi possano funzionare. Ecco, ma qual è la tipologia di attacco più comune? In termini assoluti rimane comunque il phishing, sempre, e cioè le mail che chiedono informazioni certo. a cui inavvertitamente la persona risponde. Ecco. Ma come si fa a capire se il nostro account di posta elettronica è stato preso di mira da un hacker? Tipicamente dalle conseguenze. Ma chi sono i clienti prevalenti che si rivolgono a voi? Aziende, privati, insomma di tutto, insomma, mi sembra di capire, no? Sì, il problema purtroppo può avere diverse tipologie di manifestazione e quindi... E quindi anche di prezzi di intervento vostro, no? Cioè questo la sicurezza naturalmente vero. Varia dalle richieste che vi vengono fatte. È vero, però è anche vero che in alcuni casi mettere almeno una barriera primaria di sicurezza non è una cosa altamente costosa, è più una questione di disciplina nel mantenere i sistemi aggiornati certo. e nell'insegnare, e questo è anche importante, agli utenti di stare attenti. Ecco, ma quali sono le esche lanciate dagli hacker a cui non dobbiamo abboccare? La prima cosa da stare attenti è chi è che ci manda la mail. I utenti non conosciuti, che specialmente se ci chiedono di cliccare a dei link. Questo è un tipico esempio in cui c'è un invito. Attenzione in una mail. Ai link, diciamo, esatto. Attenzione ai link sconosciuti. Ecco, ma e quali sono i dati delle aziende che valgono di più per un hacker? Forse dipende da chi li chiede. Sì, dipende sia da chi li chiede. Ovviamente tutti i dati economici possono avere un valore intrinseco, quindi i dati di carte di credito o di conti bancari chiaramente possono essere interessanti di per sé, però la tipologia di dati rubati può variare moltissimo e per esempio ci può essere un committente che può essere interessato alla geocalizzazione, cioè ecco. quindi dove una persona è stata. Esattamente. Quindi ci sono dati completamente diversi che non ci aspettiamo possano essere di interesse. E certo, quindi... perché la geolocalizzazione ti permette di seguire le persone. Esattamente. Senta, ma il pericolo di hacker è solo un pericolo esterno o se viene dall'interno delle aziende è facilissimo da scoprire? La verità è che se si parla moltissimo degli hacker, la maggior parte dei casi di furto di dati proviene e perdita, perché non è sempre voluto, certo. Proviene dall'interno. Faccio due esempi veramente banali. Il commerciale che lascia la nostra impresa e va a lavorare da un'altra parte e si porta via l'agenda, ha portato via i dati. Purale. Questo può non essere percepito come un danno, ma se comincia a rubare i clienti... No, ma è evidente che è un danno, perché c'è tutta la lista dei clienti. È come... Esatto. E come si risale al colpevole? Si può risalire al colpevole in vari modi. Tipicamente qui possono entrare anche in ballo tecniche... chiamiamole investigative tradizionali, perché certo. si possono interpellare i clienti che sono stati contattati e chiedere se sono stati contattati a seguito della fuoriuscita. Certo. Quindi non è sempre una questione elettronica, anche perché se ce l'aveva sul telefonino e se l'è portato dietro, di fatto ha sbagliato anche l'azienda per mettere questa transizione. A San Francisco si è appena conclusa una conferenza sui sistemi di sicurezza dell'informazione su software e web. Microsoft punterà su sistemi di sicurezza biometrici. Cosa sono i sistemi di sicurezza biometrici? Sono quelli che permettono l'accesso senza più uso di password, ma tramite effetti che riguardano il nostro corpo. Possono essere le impronte digitali, l'iride o altri aspetti che sono unici perché legati alla nostra persona. La nostra persona, al nostro DNA. Certo. E il vero problema è che... Per esempio, è molto facile rubare un'impronta digitale, basta che lei vada in un bar e la lasci su un bicchiere, con un pezzo di scotch si può copiare. Ma l'iride, il fondo dell'iride è più difficile. Sì, è vero, ma se viene rubata, poi diventa molto difficile provare la propria innocenza e estraneità dei fatti. Mentre una password che si sa essere compromessa, basta cambiarla. Cerchiamo di capire, eliminare le password non ci metterà di più al sicuro, anzi. Io temo proprio di no. Cioè, viva la password, dice lei. Esatto. esatto. È una rottura cambiata di scatole, spesso, però. È piuttosto lunga. 800 24 il numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Ecco, Stefano Mele è un avvocato, un esperto di diritto delle tecnologie, di privacy, di sicurezza delle informazioni intelligence. Forbes, la rivista americana, l'ha inserito tra i 20 più autorevoli esperti al mondo di cyber policy. Ecco, avvocato Mele. Noi abbiamo sentito proprio adesso le notizie anche che vengono dall'America, sempre più spesso la parola cyber war relativa agli attacchi informatici. Quindi si tratta veramente di una guerra informatica in atto? No, non si tratta di guerra informatica, non tecnicamente almeno, perché ci sia guerra c'è bisogno da un punto di vista legale di due elementi, o che qualcuno purtroppo muoia oppure che ci siano dei danni fisicamente rilevabili su delle strutture del governo colpito. E allora cosa sono? In questo caso si deve parlare più correttamente di cyber warfare, ovvero di conflittualità attraverso le tecnologie e la rete internet. Però nel 2010 in Iran c'è stato qualcosa, cosa è successo? Nel 2010 in Iran probabilmente un'azione cyber appunto da parte del governo degli Stati Uniti e Israele attraverso malware di nome Stuxnet sono riusciti. Cioè un virus, per capirci. Assolutamente, un virus in maniera vintage, perché ormai i virus, un po' come i telefoni, non fanno soltanto quello che facevano i virus, è andato a spaccare fisicamente per la prima volta nella storia una centrale di arricchimento dell'uranio, sabotandola. Cioè, mi faccia capire bene, come hanno fatto concretamente a inserire un virus nel sistema informatico della centrale? Dalle poche informazioni pubbliche che si hanno fino a questo momento pare che un soggetto, ovviamente pagato dai servizi probabilmente ancora una volta americani o israeliani, attraverso una penna USB abbia inoculato il virus all'interno della rete che era disconnessa da internet, questo virus abbia mandato in extra rotazione le ventole di raffreddamento senza ovviamente che i sistemi di controllo se ne accorgessero, dopo giorni che andavano in extra rotazione si sono spaccate fisicamente. A Roma? C'è stata un'esercitazione di tutte le forze NATO contro attacchi informatici. Lo spazio cibernetico è la dimensione in cui avverranno in realtà le future guerre fra stati? Attualmente il vero valore sotto il punto di vista militare è fondamentalmente legato alla facilitazione di attacchi cinetici. Che cosa vuol dire? Vuol dire agevolare un attacco tradizionale, quindi penetro i sistemi informatici dello spazio aereo di un nemico, li disabilito senza spegnerli in modo che nessuno se ne accorga e passo a bombardare senza che lo Stato bersaglio di questo bombardamento se ne accorga, semplificando enormemente. Sì, quindi... Questo in questo momento. In futuro, con una sempre maggiore digitalizzazione di tutte le informazioni, il loro accentramento, la scarsa percezione dei pericoli derivanti da questo genere di comportamenti e l'incapacità di risolvere tuttora il problema dell'anonimato di chi attacca, quindi capire chi ci sta attaccando. Perché non si riesce a risolvere ancora, avvocato Mele, si riesce a risolvere in maniera efficace, soprattutto in tempi ristretti. Ci vuole del tempo per arrivarci. Ci vuole del tempo quindi... per arrivarci. Questi elementi e la sempre maggiore penetrazione capillare delle tecnologie in ogni settore della nostra vita, certo, di tutti i cittadini, anzi stiamo andando sempre di più verso il cosiddetto internet delle cose, quindi ci saranno i frigoriferi che saranno connessi a internet, quindi aumenteremo la superficie di attacco, un domani sicuramente il cyberspazio acquisterà sempre di più un valore fondamentale in qualsiasi operazione militare. Quindi diciamo che gli hacker diventeranno i padroni del mondo, insomma. Ma non so se gli hacker diventeranno i padroni del mondo, sicuramente in questo momento e nel futuro c'è una rivincita dei cosiddetti nerd. Per tanti anni i nerd sono sempre stati visti come gli smanettoni informatici, incapaci di avere rapporti sociali. Mentre invece con gli altri, invece adesso in questo momento gli uomini più ricchi al mondo sono nerd, Bill Gates, Steve Jobs, eccetera, certo, eccetera. L'Italia rischia attacchi informatici a infrastrutture sensibili del paese? L'Italia, come tutti gli altri paesi al mondo che utilizzano le tecnologie anche in ambienti critici, rischia di essere bersaglio di un attacco informatico o, meglio ancora, perché questa attualmente è la vera minaccia alla sicurezza nazionale e alla competitività di ciascun paese, un attacco di spionaggio elettronico, quindi teso alla sottrazione di informazioni classificate, di know-how, di proprietà intellettuale. Perché in realtà lo spionaggio oggi è molto più elettronico che non, come dire, su terra, sul territorio, conoscenza del territorio. Non Hamas soppiantato completamente, ovviamente agevola moltissimo le attività, perché appunto, come dicevo precedentemente, abbiamo digitalizzato tutto. Gli obiettivi più a rischio oggi quali sono? In realtà gli obiettivi a rischio oggi sono tutti. Dalle aziende private, alle piccole e medie imprese, ai governi, alle infrastrutture critiche nazionali. È chiaro che più alto è il valore dell'infrastruttura da proteggere / colpire, dipende dal punto di vista in cui si guarda, e maggiore ovviamente è il valore. Senta, ma c'è una strategia per fronteggiare eventuali attacchi informatici da parte della struttura Stato, diciamo così, oppure no? L'Italia si è dotata di una cyber strategy alla fine del 2013. È una strategia ben scritta. E quanto investe l'Italia in questa sicurezza cibernetica? Grazie anche all'attività del nostro Dipartimento di Informazioni per la Sicurezza e anche dei nostri militari sotto altri punti di vista, sta investendo tantissimo perché hanno capito. Ma tantissimo cosa vuol dire? Purtroppo non si sanno quali le cifre reali di questo investimento. Comunque investimento importante. È un investimento importante soprattutto di know-how, perché la prima cosa è creare conoscenza e consapevolezza della minaccia. Ecco, Avvocato Mele, ma qualche settimana fa 80 province turche su 81 sono rimaste al buio. È stato un attacco informatico al sistema di distribuzione dell'elettricità o che cosa? Informazioni specifiche purtroppo non sono disponibili. Non è possibile, detto che ragionevole, non sia assolutamente possibile pensare che un'infrastruttura di erogazione dell'energia elettrica possa essere colpita da un cyber attacco. Cioè non può essere un semplice blackout come è capitato tante volte anche negli Stati Uniti, per esempio. Potrebbe essere anche ovviamente quello, un blackout, però purtroppo non ci sono informazioni in merito. Ciò però non va ad escludere in questo momento né in un senso né nell'altro. Avvocato Mele, leggiamo dappertutto in continuazione sulle capacità informatiche dell'ISIS. Hanno strumenti e competenze per programmare una cyber war, secondo lei, oppure è così anche un po' fantaletteratura? In questo momento, dalle informazioni che si hanno, è un po' fantaletteratura. Sicuramente l'ISIS ha dimostrato di avere delle capacità maggiori rispetto ad Al-Qaeda, quindi bisogna vedere. Vabbè, anche c'è un'evoluzione nella forma di racconto. C'è stata un'evoluzione sicuramente nelle capacità e nelle competenze di utilizzare le tecnologie e la rete internet per fare proselitismo, indottrinamento e reclutamento online. Sì, sì, ma anche da il racconto delle loro azioni terribili, però sono abbastanza hollywoodiane. Diciamo. Assolutamente, assolutamente. Però da qui ad avere reali capacità di fare attività di cyberterrorismo c'è un salto enorme. Anche il recente attacco alla televisione francese, che viene attribuito all'ISIS, si è scoperto che non era nient'altro che capacità di guardare un video su YouTube di un giornalista che veniva intervistato, e dietro di lui c'era un foglietto con le password di amministrazione della rete della televisione. Quindi diciamo che per ora si può dire che si limitano a usare bene i social network o qualcosa di più? Si limitano a utilizzare molto bene i social network, si limitano a utilizzare molto bene internet come repository per mettere a disposizione documentazione a livello globale, per creare il primo step di indottrinamento e di radicalizzazione, ma poi si va sempre a cercare di richiamarli per farli fare i campi di addestramento, eccetera. Senta, Avvocato Mele, ma nel decreto antiterrorismo che è stato approvato nella notte di pochi giorni fa, c'è un capitolo dedicato alla cyber war o no? No, purtroppo il decreto antiterrorismo si è concentrato, probabilmente a ragione, esclusivamente sul cercare di creare i primi elementi per arginare la minaccia strettamente legata al cyberterrorismo. Ecco, sull'efficacia però di quelle misure io ho alcuni dubbi. Del dubbio maggiore qual è? Fondamentalmente attraverso la rete internet, seppure si va a chiudere un sito, viene replicato automaticamente 30 appunto. Volte. Quindi è una fantasia inutile. Senta, Avvocato Mele, un'ultima cosa, ma chi sono invece gli attivisti? Gli attivisti sono un gruppo di soggetti che lotta per determinati ideali e lo fa attraverso la cosiddetta resistenza digitale, quindi fondamentalmente facendo attività. Ma ideali digitali quali? Soprattutto legati alla libertà di pensiero, fondamentalmente la lotta cosiddetta politica, come noi l'abbiamo sempre vista, si è trasferita ovviamente anche online. No. Ovviamente per fare questo genere di attività, però, occorre specificarlo, commettono dei crimini. Ecco, abbiamo Leonardo da Vicenza. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, guarda, mi collego anche a quello che si stava dicendo poco fa. Sì. Io conosco, c'è sempre stato parlare dell'organizzazione Anonymous, di questi hacker che violano delle dei vari siti, sì. Ecco, come vengono considerati appunto anche dall'avvocato stesso? Vengono considerati molto semplicemente, Mario, come degli hacker, sono degli hacker, sono degli hacker. Semplicemente, a volte sono molto famosi. Sì, sono come i pirati che venivano utilizzati poi nelle guerre regolari. Sì, certo. Infatti, grazie. Fanno cose buone e cattive, dipende. Ecco Mario, nell'ultimo bilancio federale americano c'è la voce salvaguardia e messa in sicurezza del cyberspazio con uno stanziamento di 41,2 miliardi di dollari. Sì. È un cambio di modello di guerra anche in qualche modo, sì, perché sono i 500 miliardi del bilancio, già comincia a essere una cosa sì, importante. Aggiungi che per esempio, e siamo nello stesso campo in realtà, il mercato dei droni armati per la difesa americana nei prossimi 10 anni sarà di 80 miliardi di dollari. Quindi droni più cyber per guerra e significa cambia che il modello di guerra che la digitalizzazione è arrivata a pieno regime al Pentagono e dunque cambia certamente il teatro operativo della guerra. Naturalmente io sono molto interessato a questo tipo di scenario perché cambia il modello di difesa anche sì, cambia i modelli di difesa e cambia anche molto gli equilibri geopolitici naturalmente. Marco da Roma. Pronto? Sì, ecco, dica. Ecco, buongiorno. Volevo chiedere documenti familiari, tipo foto, piuttosto che piccoli professionisti sì. che immagazzinano file sui grandi provider, sì. Alice, Gmail, Hotmail, quanto sono al sicuro o dalla sottrazione per fini industriali o dalla distruzione per sono aggirato, molto sicuri. Mario, tu sono molto sicuri perché Microsoft, Google, tutti i titani usano un livello di crittografia molto elevatissimo. Il problema è se tu cambi la password regolarmente. Certo. Questo. Cioè la prima regola per la sicurezza è avere una solida e forte password. Come ci ha detto prima l'esperta esatto. della da cambiare periodicamente. Che fatica. Posso? Certo. A costo di farmi marchiare da complottista, sì. però questa vicenduccia di Obama sì. che viene spiato, sì. scommettiamo che diventerà il pretesto per essere tutti quanti sottoposti a ulteriori controlli. Ma lo siamo già. Diciamo con uno. Posso usare la parola? Sì. Non so, dipende. È una. È una bestemmia? No, ma non la diresti mai. Bestemmia non è. Comunque, no, in realtà siamo polli d'allevamento. Ah, polli d'allevamento. Allora io a questa vicenda non ci credo, non me la bevo. Non me la bevo perché è il pretesto attraverso cui si costruisce questa batteria d'allevamento. Però potrebbe essere invece anche vero. Che dobbiamo farci controllare per la sicurezza. No, ma questo intanto è sempre così da sempre. Posso dire? La paura è la paura un'altra che, informazione. Che dà potere al potere. Cioè, oggi gli stati sono in realtà i veri competitor tra loro nel certo. settore dell'hackeraggio. Sì, ci sono gruppi di cittadini privati, Anonymous appunto, certo. che lo fanno, ma in realtà il più grosso hacker in circolazione si chiama Cina in questo momento, tanto per dirne uno. I russi sono molto forti, ovviamente gli americani sono fortissimi, gli stessi israeliani hanno fatto operazioni mirabili. Si è spostato il livello il luogo della la competizione, la cyber warfare, no? Bene. Si chiama così. Va bene, pubblicità. Mix 24. Quando te ne andrai, e so che te ne andrai, come sarà l'addio che mi confezionerai? Sarà un sorriso tenero, una carezza languida. Dolcezze del lunedì. Perché oggi in metropolitana si sono ritrovati tutti in un unico vagone quelli che in un modo o in un altro avevano avuto la preghiera interrotta. Ed era in tutta la rete sotterranea come se un'energia di aria, di terra, di mare aspettasse un canale, un modo, una via per dare luce. Molti avevano l'aria assorta, qualcuno sorridendo confidava in qualcosa e quando il Sufi è entrato alla fermata Cipro, attraversando tutto quel silenzio elettrico, si aprì in un sorriso mostrando a tutti loro un vassoio spolverato di terra terra di grani grossi e fertili da dove sbucava la capocchia di un tulipano. E quindi aria, terra, mare. Entrarono alla fermata successiva e tutti i pendolari, cercando aria, terra, mare, come in questa canzone di Giorgio Conte, contemplando la propria preghiera, dissero finalmente la parola segreta e in un modo o in un altro ognuno trovò il proprio viaggio. Se ne vedo tante, hai un bel cercare per aria, terra. Dopo il lunedì di poesia andiamo al lunedì di prosa. Alla camera. Comunque era bella terra di sì, mare, perché a me ricordo un grande saggio di Cash Smith, che è mica male, di geopolitica, una cosa seria, vero Pietrangelo? Altro che edito da Adelphi, per essere chiari. Bene. Mi consenta, Terra e Mare edizioni Giuffre sì, nell'edizione originale. Io ce l'ho a Delfi. Va bene, ok. Allora, fantastico questo, eh? Senti che bello. Siamo tornati ai mondiali. La Tardelli si è messa le mani in faccia perché penso che questa sia un po' tamarra. Sì, però sono i Pitbull, è un grandissimo gruppo musicale. E insomma, siamo in clima da calcio mondiale, da Pitbull. Ragazzi, allora, l'Italicum arriva in aula, fila alle edicole per comprare i giornali su questa cosa, però in realtà è importante perché è un voto finale che è atteso la prossima settimana. Comincia la discussione generale, si è diviso il PD, mezzo Parlamento bisognerà vedere quanto. Infatti io li aspetto tutti al varco. Io non credo tanto diviso alla fine. Vediamo, sarà divertente capirlo. Un po' di Parlamento fa l'Aventino, fa finta, fa sul serio, non si capisce. Credo tutte Io finte. Penso sia il caso di ricordare almeno a grandi linee che cosa vuol dire l'Italicum. Che cos'è? Tantomeno. Allora, l'Italia viene divisa in 100 collegi, quindi sì, sono collegi medi, diciamo, ognuno dei quali elegge in media 6 o 7 parlamentari. La lista che supera il 40% dei voti ha un premio di maggioranza. Se nessuno supera la soglia del 40% dei voti, si va al ballottaggio. C'è uno sbarramento che è al 3% e i capilista sono bloccati. La riforma entra in vigore nel 2016. Bene. Domanda: se il governo casca e bisogna andare al voto anticipato prima del 2016, quindi adesso, che si fa? Si vota col consultellum. Si vota col consultellum, perché siamo giganteschi noi italiani a inventarci i nomi. Il consultellum che cos'è? Ragazzi, è quello con cui si è votato fino al Mattarellum, cioè proporzionale puro, collegi grandi e preferenze. Alleanze fate prima? Zero. Non ci sono coalizioni. Vabbè, e che cosa si voterà, fa? Si voterà con l'Italia, come stai tranquillo. Si voterà con l'Italia. Con forza, no, vediamo. No. Butta fuoco, non, proprio. C'ha uno sguardo convinto, che dovreste vederlo. Di la tua! Ma io... No, ma... Il problema è vostro, che siete democratici. E lo so. È vero. E andiamo col tuo salamino dittatoriale, vai. Poco adatta ai selfie. Adusa certo alle slide, ma sgangherate, inadatta allo, si dice così Mario, allo storytelling? Aspetta, racconto. Aspetta, si dice al racconto. No, ma devo, perché sta prendendo lezioni. Dai, vai. Storytelling. Ecco, inadatta a quella cosa che ha detto lui, sebbene maestra di vita, sapete chi è? Chi è? Cenerentola! Sapete chi è Cenerentola? È la scuola. Matteo Renzi, in verità, ha tentato di farne il palcoscenico della propria suggestione. E tutto ebbe inizio, ricordate dove? Fu tutto un fatti mani, tutto ebbe inizio a Siracusa, ma la scuola è rimasta Cenerentola, perfino dentro casa con la signora Agnese, che è precaria. Il signor Premier potrebbe cavarne notizie, e invece ora è sempre suggestione. Il ministro Giannini viene contestata, gli insegnanti vanno verso lo sciopero, l'Invalsi è pronto a rinviare i test e Renzi si meraviglia. Ah, come? Assumo 100.000 insegnanti ed è possibile che siano in fermento? Allora, proviamo a spiegare. Tanto per cominciare, le assunzioni non sono una sua regalia magnanima, ma sono conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dice assumili. Punto. Le assunzioni poi non regolarizzano, come spiega Stefano Della Posta, un professore che ho interpellato per farmelo spiegare, i precari abilitati senza i quali non ci sarebbe un solo istituto funzionante, ma sono quelli delle cosiddette graduatorie d'esaurimento, eliminando i quali ci sono i restanti iscritti. Poi chi? Gli idonei al concorso del 2012, che l'hanno vinto, sono risultati idonei, però non possono lavorare. E così gli iscritti in seconda fascia di istituto, abilitati ma frullati in questo sorteggio. Ne assume 100 per lasciarne in strada 150.000. E però sempre tutti quanti... Resto viene qui in fila per tre cose, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la bene fila per... Oggi c'è, come sempre, lunedì, il lunedì libro di Alessandra Fiori. Conta più il viaggio o la meta? Per Stefano Bartezzaghi conta moltissimo anche il mezzo di trasporto. E se nella Parigi dell'Ottocento il romanzo sotterraneo erano le fogne dei miserabili, ora M, una metronovela, è il romanzo della metropolitana. La metro, sostiene Bartezzaghi, è innanzitutto una teoria sulla città, una sintesi, un riassunto, una rappresentazione, un'ombra riportata. La città è Milano, vista attraverso il suo reticolo di linee e stazioni, che diventano le porte di un viaggio nel labirinto cittadino e in quello della memoria. Bartezzaghi cammina facendo il gioco di non fermarsi mai, compie il suo slalom tra i ricordi, dalle lezioni di Celati passando per Calvino, Gianni Brera e Oreste Del Buono. Riflette sul transito dei gerghi, esplicativi di certe incomprensioni tra milanesi e romani. Scrive Bartezzaghi: famoso è il caso di Sticazzi, che se a Roma significa vabbè, chi se ne importa, un po' mi è dispiaciuto, ma poi Sticazzi, a Milano invece significa accidenti, sono impressionato. Allora il genuino Sticazzi romano non è molto lontano dal milanese. Ciao! Ci sono poi gli incontri, lampi di poesia amari e struggenti, come la mendicante di Porta Genova, che spazza il ponte per tenere in ordine il luogo di lavoro. Ho provato amore, dice Bartezzaghi, e poi, un giorno o l'altro, bisognerà parlarne di questa benedetta parola. M, una metronovela, di Stefano Bartezzaghi, Einaudi. Vabbè, ciao, così si dice. Che è successo? No, dice, si vede che è romana, Alessandro. Non sa fare il milanese, però non ci riesce proprio. È biondissima e bellissima. Molto, molto. Senti, molto. Vabbè, vai ancora con una bolla. Però sbaglia metropolitana. Sì. I could show you incredible things, magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God. Oh, le posso dire una cosa? Sveliamo che hanno sbagliato colonna sonora. È partita una cosa che non so cos'è. Cos'è, ma va bene, facciamola sentire. Può essere bella lo stesso. Sì. Quella vera non si può sentire, quella prevista. No, vabbè, no. Non c'è. Va bene. C'è. Però, non lo so, adesso non riesco a capire cos'è, perché vabbè, hanno sì. fatto iniziare, ma va bene. Vai con la bolla. Va bene, e io volevo partire da America e Giappone, in realtà. E fioriscono i ciliegi giapponesi a Washington. Chi è andato in questo periodo sa che c'è il cosiddetto cherry blossom, è bellissimo. Chi non l'ha mai visto, ci vada. È il tempo ideale dunque per una visita del premier Shinzo Abe a Washington. Il Giappone sta per firmare importantissimi accordi nel settore della difesa e del commercio. Parliamo di cose che anche queste impatteranno notevolmente sulla nostra vita. E la visita è molto importante. tanto che per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale un premier giapponese, in questo caso Shinzo Abe, terrà un discorso di fronte al congresso, sempre per tenere le fila di cose che sono intorno a noi ma che, diciamo, da noi non raccontano. Ma quindi diciamo che c'è una grande gerarchia nel modo di ospitare, sì, gli ospiti negli Stati Uniti. Assolutamente, cioè, sì. A seconda vengono organizzate delle cose diverse, delle occasioni diverse. Per esempio Berlusconi fece uno speech, ricordo, fu accolto con grandi onori all'epoca, magari capiterà anche a Renzi. Sì, tant'è vero che quando c'è andato tutto gli ha detto tranne che di lo porto. Vabbè, ma non lo sapeva ancora con certezza. Non era ancora sicuro. No, io penso che non lo sapesse. Renzi. Io non lo so, se Renzi non lo sapeva, sicuro. Se Obama lo sapeva non gliel'ha detto, è brutto. È probabile che Obama non gliel'abbia detto, però sì, anche questo non è così. Vabbè, mettiamo così, è il ritratto dell'innocenza. No, di chi? Gli americani, figuriamoci. Nessuno è innocente in questo poi mondo. Poi Renzi a maggior ragione. Pubblicità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Mix 24. Il nostro DJ Mario Secchi questa volta ha sbagliato perché la regia ha protestato, ha detto era quella che ci ha segnalato lui. Sì, era comunque... non l'ha riconosciuta a distanza di 20 minuti. Non sto a dirvi cosa ha fatto durante il weekend. Salamino. Chi va via francesa, chi va via spagnola, ma sono chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, così cantava la Sciantosa e la formosa, bella e potente destra che fu, aggiornando i tempi, non sapendo diventare italiana, e non lo diventerà mai, con Silvio Berlusconi diventa americana. Forza Italia, infatti, guarda al Partito Repubblicano, Dio ce ne scampi, dei Bush. Raffaele Fitto, invece, attualmente ancora in Forza Italia, ma in uscita, malpancista, non si sa quale sia la sua lista, rispetto a Berlusconi sceglie la Gran Bretagna e sul Telegraph, niente meno, pubblica una lettera di endorsement, ormai con le scuole alte, oltre che il dudese, sì, parlo anche l'inglese oltre che il dudese. Allora, l'endorsement, che sembro Paolo Mieli, no? Quando lo fece per Romano Prodi, fece l'endorsement. Sì, allora, lui lo fa l'endorsement a favore di David Cameron. Allora, Berlusconi che cosa fa? Aspetta una sola cosa, invece. Aspetta che passino queste regionali. Non farà mettere il suo nome nell'emblema, perché la prospettiva è quella di una Caporetto. Non farà comizi, ma fa un pellegrinaggio, quello sì. Andrà a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. E qui io non posso non ricordare di quella volta quando Francobaldo Chiocci, un grande inviato, maestro di giornalismo, e Luciano Cirri, che era l'uomo per cui tutte le donne impazzivano, Cirri fu il fondatore del Bagaglino, partirono alla volta di San Giovanni Rotondo per incontrare il santo. Stavano lavorando a un'inchiesta per il Borghese, che era il grande settimanale di Leo Longanesi, e loro due erano due uomini meravigliosi, lo so, pieni di amori e di struggimenti, viaggiavano sazi di lussurie, e quando a un certo punto ebbero l'idea della meta e dell'incontro, fermarono la macchina d'improvviso e si guardarono, erano tutti sbaciucchiati, ancora di rossetto, ancora col sapore del whisky della notte prima, e si dissero: oh, e se poi ci converte? E così sarà per Berlusconi. Mario, ancora una bolla? Sì. Questa è giusta. Young Falls, giusta. Ma anche quella era giusta, solo che c'aveva un taglio che mi ha fregato. Vabbè, dai. Facciamo risentire un po'. Ma perché non fai risentire anche quella di prima, così capiamo che taglio era giusto? Si può fare. Allora, notizie dal mondo digitale. Google, eBay, Apple, quindi tre giganti. Caro Giovanni, lo so che tu sei un po', diciamo che tifi un po' per la causa antitrust assolutamente europea, sì, però io ti dico che vabbè, ma sai, è velleitaria la vita, com'è? Bisogna saper perdere la vita, eh? È varia, figurati, ecco, a chi lo dici, noi professionisti della sconfitta, non vivere pericolosamente sempre, insomma, vabbè, la causa c'è, solo che il capo di eBay ha detto che Google è un competitor diretto nello shopping online, quindi vi lascio immaginare che cosa è Amazon per Google, e questo però mette, diciamo, abbastanza in crisi una delle tesi dei burocrati di Bruxelles, e cioè che quello abbia una posizione dominante totale, completa, e che riesce a condizionare tutto. Quindi secondo me ci sarà un bel match sulla questione dell'antitrust in Europa e Google. L'altra cosa importante è guardare oggi i risultati del trimestre di Apple. Si attendono i ricavi in meno, e uno dice: ma perché qualche miliardo in meno? I prodotti vanno male? No, i prodotti vanno benissimo, ci saranno, credo, allora? Ottimi risultati dalla Cina. E il dollaro? Il dollaro forte. Che frena i ricavi. Che frena i ricavi. Bene. Hai visto Draghi che ha combinato? Bravo. Bravino Draghi. Sì, bravo. Sì, beh, bravo. Se non ci fosse lui. Beh, la ripresa è sua. Adesso sì. Adesso l'hai riconosciuta? Bella, bene, abbiamo sistemato anche questa pratica, e per iniziare la settimana continuiamo il nostro viaggio nell'Italia positiva, l'Italia dei nuovi mille che crede nel cambiamento. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. I nuovi mille, quegli italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro a cambiare in meglio il nostro paese. Uno dei nuovi mille è Marco Boschini, 40 anni, in politica da 16 e coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi. Marco, qual è l'identikit brevemente di un comune virtuoso? Un comune per essere virtuoso deve mettere al centro le politiche ambientali, quindi tutto quello che ha a che fare con la gestione dei rifiuti, il consumo di suolo, la gestione del territorio, l'efficienza energetica, le politiche partecipative, di inclusione sociale, ecco, tutto questo declinato in un'ottica di sostenibilità, quindi riduzione dei consumi, degli sprechi, risparmiare risorse e creare posti di lavoro. Marco, ma qual è il primo risultato virtuoso che avete ottenuto, risultato concreto? Interrompere la cementificazione in un territorio non mettendo in crisi un sistema edilizio. Come avete fatto? Orientando il mercato e il settore edilizio nella logica di riqualificazione degli spazi esistenti, anche da un punto di vista della messa in sicurezza del territorio e della riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati. Il vostro prossimo ambizioso obiettivo? Riuscire a influenzare la politica nazionale trasversalmente agli schieramenti politici, perché queste azioni si riescano a fare non nonostante le normative, nonostante le leggi, nonostante i sempre minori trasferimenti dallo Stato, ma avendo nella politica nazionale leggi, finanziamenti, investimenti anche a livello culturale, di formazione della classe amministrativa politica, che consenta a queste cose di dare più gambe più velocemente. Quanti sono i comuni iscritti alla vostra associazione dei comuni virtuosi in Italia? Nell'associazione dei comuni virtuosi, comunivirtuosi.org, fanno parte un'80 di comuni, quindi un campione quantitativamente ridicolo, l'1%, se pensiamo che in Italia ci sono 8.000 comuni. In questi 10 abbiamo visto crescere moltissimo la cultura della sostenibilità e del rispetto ambientale. Si potrebbero applicare i vostri modelli di azione, di amministrazione anche alle grandi città? Nei primi anni era l'obiezione più forte che ci faceva la politica, dirà che non ha voglia di cambiare. Queste cose si possono fare solo nei piccoli comuni, possibilmente del nord e possibilmente ricchi. Finalmente da un paio d'anni, 2 o 3 a questa parte, anche le città di medie dimensioni, penso a città come Trento, come Parma, mettono in piedi dei progetti che dimostrano che si può fare anche in quelle zone, in quelle situazioni. Faccio un esempio su tutti: nella provincia di Treviso sono all'84% di raccolta differenziata e parliamo di 500.000 di abitanti. Ma per fare questo è sufficiente che operino bene gli amministratori, o ci vuole anche un cambiamento tra i cittadini? I comuni virtuosi ci sono laddove ci sono delle contaminazioni tra amministratori e cittadini. Le esperienze più belle ci sono dove i cittadini si mettono in gioco e non si accontentano più di dire che fa tutto schifo, che non cambia nulla, ma ci mettono la faccia, il tempo e la voglia di cambiare. Marco, che rapporto ha l'Associazione Comuni Virtuosi con l'ANCI? Con l'ANCI abbiamo un rapporto altalenante. L'ANCI è un grande, permettimi il termine, un grande carrozzone dove c'è dentro un po' di tutto, nel bene e nel male. Ci piacerebbe che l'ANCI ci usassi un po' di più, nel senso soprattutto nella parte della formazione. Noi facciamo questa scuola di altra amministrazione, che sono dei corsi che portiamo in giro per l'Italia, per trasferire conoscenza. Se ci fosse un po' più di concretezza a volte in questa reciprocità, forse queste buone pratiche avrebbero un veicolo più veloce di diffusione sul territorio. Grazie. Per saperne di più andate sul sito italiachecambia.org. Mario, c'è ancora una bolla? Trouble travels fast when you're specially designed for crash. Sound più lento, per dire che Giachetti, che è uno che queste cose le sa del PD, che è attento alla riforma elettorale, dice che non ci sarà nessuna scissione nel PD. No, ma nel PD non ci sarà nessuna scissione. Esatto. Meno male, così possiamo dormire stanotte. Ecco, intanto dopo il giornale radio, come sempre, ritorno alla storia raccontata da Marina Milone. Oggi cosa raccontiamo? Sono passati 29 anni dal disastro della centrale nucleare di Chernobyl e oggi raccontiamo la cronaca dei momenti che hanno preceduto l'incidente. È la storia dei protagonisti e gli interrogativi che restano ancora aperti sulla dinamica degli eventi. Sulle conseguenze dell'incidente per il nostro paese ne parliamo con il generale Jean. Bene, dopo il giornale radio la storia di Chernobyl è prima della pubblicità. Problemi di Chiara Civello. Neanche avendoti vicino potrei capire se tu mi vuoi davvero. Di giorno io mi sento che non ti amo più. La notte non ha pace se non ci sei tu. Travolgi la vita.